Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Benvenuti e benvenute a Möbius. C'è il Festival della Scienza a Genova, ne parleremo tanto in questa trasmissione, ma noi incominceremo con tuorli d'uovo. A Möbius torna la cucina scientifica. Si può cuocere un uovo solo con sale e zucchero? Certo, grazie alla denaturazione delle proteine. Da una settimana è in corso il Festival della Scienza di Genova e noi vi raccontiamo alcuni degli appuntamenti e dei personaggi più interessanti di questa edizione. Il circo è sotto accusa. Gli animalisti si schierano contro gli abusi inflitti agli animali, ma anche gli psicologi sottolineano quanto questi spettacoli possano influire negativamente sulla psiche dei bimbi. E a grande richiesta ritorna, perché era veramente un po' che non ne parlavamo, la cucina scientifica con Chiara Albicocco. Sei tu la depositaria. Buonasera, per me. Buonasera Federico, buonasera a tutti. Finalmente torna, l'abbiamo un po' trascurata in questi mesi, ma in realtà noi dietro le quinte abbiamo lavorato. Infatti abbiamo lavorato su questo fronte e ora vogliamo presentare agli ascoltatori il frutto di questo lavoro. Ovviamente con noi c'è sempre il nostro fisico buongustaio Davide Cassi. Buonasera e benvenuto professore. Buonasera. Allora, ricordiamo per chi ci segue per la prima volta, qualcuno lo saprà già, che lei è docente di fisica della materia, direttore del laboratorio di fisica gastronomica presso l'Università di Parma, e ora dobbiamo presentare, insomma, il lavoro che abbiamo svolto in questi mesi, che consta di 8 nuove ricette di cucina scientifica. Possiamo chiamarle video ricette, perché in realtà sono dei video che gli ascoltatori possono trovare sul nostro sito e sul nostro blog. Ora vi do i riferimenti. Il blog è blog.moebiusonline.eu, il nostro sito è sempre www.moebiusonline.eu, e noi abbiamo realizzato queste video ricette in collaborazione con ALMA, che è la scuola internazionale di cucina italiana, quella di Gualtiero Marchesi per intenderci, dove abbiamo appunto realizzato i video. Allora professore, ora dobbiamo dirlo, abbiamo avuto anche una collaborazione importante di uno chef importante. Con cosa iniziamo? Io direi con un tuorlo d'uovo insolito, no? Per forza, perché io l'ho già annunciato. Sì, l'uovo marinato. Sì, ragazzi, sono tante tecniche per creare dei tuorli d'uovo insoliti. Oggi ne vediamo una in particolare che è stata inventata da uno chef italiano di Milano che si chiama Carlo Cracco, che molti conosceranno. In che cosa consiste questa tecnica? Potremmo inquadrarla nella categoria più generale delle pseudocotture a freddo, come sono di solito appunto le marinature. Allora, brevemente, si prende un tuorlo d'uovo e lo si depone su un letto formato da sale e zucchero. Lo si ricopre di nuovo di sale e zucchero e lo si lascia riposare qualche ora. Poi vedremo il ruolo dei tempi di riposo. Cosa succede? Il sale e lo zucchero sono altamente igroscopici, quindi assorbono l'acqua contenuta nel tuorlo. Il tuorlo contiene proteine che, una volta che viene disidratato l'ambiente in cui sono immerse, si denaturano, cioè iniziano a srotolarsi e si intrecciano, ovvero in termini tecnici coagulano, formando quella struttura più dura e tenace che è tipica dell'uovo cotto. Ecco, teniamo presente che in questo caso, oltre all'effetto simile a quello del calore, abbiamo anche quello di disidratazione provocato dal sale. Chiaramente il sale, a sua volta, insieme allo zucchero, diffonde lentamente all'interno dell'uovo. La lentezza è una delle caratteristiche più importanti di questi processi di diffusione. Infatti, se noi lasciamo soltanto qualche minuto il tuorlo all'interno di questa sorta di bagno di sale, ci ritroveremmo con una crosticina superficiale indurita e con l'interno ancora tranquillamente morbido come quello di un tuorlo crudo. Man mano che il processo procede, questa crosticina si inspessisce fino ad arrivare a tempi lunghi di 5, 6, 7 ore. Quindi più lo lasciamo, diciamo, più si solidifica. Possiamo arrivare ad avere un tuorlo completamente solidificato, piuttosto duro e tendenzialmente anche plastico. E alla fine, se facciamo indurire tutto il tuorlo, possiamo addirittura impastarlo come se si trattasse di un impasto normale per fare pasta. Quindi si possono creare delle tagliatelle di solo tuorlo, delle lasagne o anche altri tipi di pasta. Aggiungo che è una ricetta interessante per chi non vuole mangiare carboidrati. Il tuorlo contiene tanto colesterolo, quindi bisogna anche stare attenti a non esagerare in questo senso. Un tuorlo a testa, diciamo, non crea problemi, un tuorlo a testa. Ma un tuorlo a testa, poi dipende da quante volte ne mangiamo, no? Ci vuole sempre un pochettino di equilibrio, di varietà nell'alimentazione. Allora, Volevo aggiungere perché il sale e lo zucchero. Sì. Chiaramente il processo funzionerebbe benissimo con soltanto il sale. Però, come vi dicevo, esattamente come l'acqua esce dal tuorlo, il sale entra nel tuorlo, perché è una legge fisica che riguarda tutti i fenomeni diffusivi, che la concentrazione delle varie sostanze tende ad essere la stessa fuori e dentro. In questo modo il sale e lo zucchero entrano e l'acqua esce. Ora, se entrasse solo il sale, il tuorlo sarebbe terribilmente salato. Aggiungendo lo zucchero si equilibra il sapore. Ah, ecco il perché di questa miscela strategica. Appunto, si potrebbe anche marinare soltanto nello zucchero, ottenendo un prodotto chiaramente più dolce. E potrebbe essere interessante per la preparazione di piatti dolci. Adesso chiaramente non abbiamo potuto esaminare tutto nei nostri video. Comunque trovate una ricetta alla portata di tutti e una ricetta di alta cucina. Ecco, infatti, in questo video, ad esempio, dell'uovo marinato, troverete sicuramente la spiegazione della tecnica di preparazione del piatto fatta da noi, diciamo, apprendisti e dal professore, che abbiamo realizzato una semplice insalata con un tuorlo marinato. E invece, con la collaborazione dello chef di Alma, Luciano Tona, che ringraziamo chiaramente, ha realizzato veramente un piatto meraviglioso. Degli spaghetti integrali con del castelmagno, veramente un piatto molto elaborato, di alta cucina, vero professore? Assolutamente sì, e questa è anche una bella dimostrazione del fatto che le tecniche di cucina in sé sono neutre, le può utilizzare il dilettante così come il grande cuoco. E così come la scienza deve mettere a punto le tecniche nuove di cucina scientifica, sta poi ai cuochi utilizzarle al meglio per ottenere delle ricette buone. Benissimo, allora professore, per questa volta diciamo abbiamo dato tutte le indicazioni, speriamo che qualcuno insomma si sia incuriosito, e magari nelle prossime puntate di cosa parliamo? Che ne dice di fruttosio satinato? Ecco, per esempio. Passiamo a una ricetta dolce e anche abbastanza allegra, perché si realizzano delle creazioni esteticamente molto belle. Va bene, allora professore, per ora la ringraziamo e ci sentiamo prestissimo. Alla prossima, grazie. Arrivederci. Adesso andiamo rapidamente al traffico, ciao Chiara e alla prossima ricetta. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. E adesso per un po' vi parliamo di quello che abbiamo trovato al Festival della Scienza di Genova. Il sottoscritto, Barbara Gallavotti, Maurizio Meris, Chiara Albicocco, siamo andati e in alcuni casi ci sono ancora a Genova, insomma. Iniziamo ad ascoltare allora cosa hanno trovato Maurizio e Chiara. Ti ricorda niente? Sì, il fisarmonicista dell'anno scorso forse, perché infatti anche l'anno scorso quando siamo arrivati qui al Festival della Scienza di Genova ad accoglierci abbiamo trovato un musicista di strada. Certo, però che questo tipo è strano, canta solo canzoni che in qualche modo c'entrano con Dio, e mentre canta passa da una lingua all'altra. Se stai attenta senti che ogni tanto ci butta dentro un po' di tedesco, di italiano, persino di arabo. Beh, sai Maurizio, il tema di quest'anno del festival è il futuro e non è mica escluso che prima o poi le lingue si mischieranno. Sì Chiara, è tutto molto interessante, però ti ricordo che tra poco al Teatro della Tosse sta per iniziare 2984, una rivisitazione in chiave futuristica di 1984 di George Orwell, sai, quello del Grande Fratello. Su, dai, andiamo. Andiamo, andiamo. Cittadini, abbiamo per voi notizie straordinarie. Dalle statistiche emerge che il PIL, l'indice di felicità interna lorda, si è innalzato del 59%. In tutto il paese sono state organizzate manifestazioni spontanee e i cittadini hanno gridato la loro gratitudine nei confronti del Grande Fratello. Cittadini, gioite! Lavoro al Ministero della Verità, reparto pensione. Il mio compito consiste nel rettificare i fatti originali e farli coincidere con quelli correnti. File 14 giugno 2981. Cittadini, secondo i dati forniti dal Ministero della Pace, il pianeta sta andando incontro a una nuova glaciazione che potrebbe avere conseguenze disastrose sulle nostre coltivazioni e sulle produzioni industriali. Al fine di attenuare le catastrofiche conseguenze di questo evento, il Grande Fratello in persona ha invitato il Ministero dell'Abbondanza a fornire i suoi migliori scienziati. Il partito saprà vincere anche questa nuova sfida. Questo era il vecchio passato. La manipolazione del passato a cui lavoro ha lo scopo di salvaguardare l'infallibilità del partito. Questo costante processo di alterazione non è applicato soltanto ai notiziari, ma a giornali, film, libri, fotografie, insomma a ogni documento che abbia una qualche rilevanza politica o ideologica. Giorno dopo giorno, minuto dopo minuto, il passato viene aggiornato. Questo è il nuovo passato. Cittadini, secondo i dati forniti dal Ministero della Pace, il pianeta sta andando incontro a un surriscaldamento globale che potrebbe avere conseguenze disastrose sulle nostre coltivazioni e sulle produzioni industriali. Il passato è ciò che il partito decide di ricordare. La parola chiave qui è nero-bianco. Pensare nero-bianco significa affermare, al dispetto di ogni evidenza, che il nero è bianco quando lo richiede la disciplina del partito, ma implica anche la capacità di credere veramente che il nero sia bianco, di più, di sapere che il nero è bianco dimenticando di aver mai creduto il contrario. Tutto questo è reso possibile dall'uso costante del bipensiero, cioè la capacità di accogliere simultaneamente nella propria mente due opinioni tra loro contrastanti, accettandole entrambe. Per esempio, in questo ufficio siamo tutti alti uguali, ma io sono più alto. Ma la libertà è la libertà di dire che 2 più 2 fa 4. Cittadini, abbiamo per voi notizie straordinarie. Dalle statistiche emerge che il PIL, l'indice di felicità interna lorda, si è innalzato del 21%. Cittadini, gioite. Sai Chiara, quanto a uso distorto dei sondaggi, devo dire che la finzione non mi pare troppo lontana dalla realtà. Della nostra realtà. Direi di sì. Ma vabbè, comunque c'è un'altra cosa che mi ha fatto venire in mente questo passo di 2984. La conferenza sulla realtà del tempo e il suo significato in cosmologia di Lee Smolin, uno dei più grandi fisici contemporanei. Of course time disappears from equations because equations... Il fatto è che per certi versi le cose non sono cambiate molto negli ultimi 2000 rotti anni, sai, le due vecchie domande, quelle che già si ponevano i greci, ovvero se il tempo sia reale, se i nostri sensi ci restituiscano l'universo per come è veramente, tutto sommato non hanno ricevuto ancora risposte convincenti. In effetti oggi la maggior parte dei fisici pensa di no, cioè che il tempo non sia reale e che i sensi non ci restituiscano l'universo per quello che è, perché nessuna legge fisica, almeno di quelle che sono state ricavate dagli esperimenti fatti in laboratorio, fa distinzioni fra il passato, il presente e il futuro. Ma Smolin non è d'accordo. Secondo lui l'unica cosa che esiste infatti è proprio il presente. Il passato non esiste più, ma abbiamo di esso delle registrazioni e beh, del futuro neanche quelle. Sì, vabbè Maurizio, mi sembrano discorsi ai limiti della metafisica. Sì, devo ammettere che è stata una conferenza un po' impegnativa. E io aggiungo che alcune conferenze qui a Genova mettono veramente a dura prova la resistenza e l'attenzione anche del più motivato. E capita di vedere parecchie teste ciondolanti, soggetti in preda al sonno, beh, diciamo che nessuno è escluso. Dopo 2 ore di lucida attenzione può capitare di lasciarsi cullare tra le braccia di Morfeo, a meno che non si venga catturati dall'avvincente racconto dell'oratore di turno. L'incontro a cui ho partecipato, dal titolo Figlio mio quanto mi costi, incentrato sul tema delle cure parentali nel regno animale, a farla da padrone è stato il racconto di un giovanissimo naturalista genovese, Emanuele Biggi, appassionato di ragni, che ha catturato la giovane platea parlando di ragni stupratori, Don Giovanni e tarantole adottive. Senti qua. Non vedo l'ora. Ho portato uno degli esempi più caratteristici che fanno sempre un po' sorridere anche noi, è quello del ragno pescatore gigante Ancilometes, che è un ragno che vive nel bacino amazzonico e ha la particolarità che il maschio, una volta che raggiunge finalmente una femmina adulta e pronta quindi a riprodursi, è un po' un cialtrone, in realtà non è gentile, non è un cavaliere, ma bensì, almeno apparentemente, fa qualcosa di assolutamente brutale, cioè le salta addosso e le lega le zampe, dopodiché in pratica si può dire che la stupri. In realtà, allora, torniamo al lato scientifico e serio della cosa, è un rituale questo che il maschio fa per dimostrare alla femmina che è un buon maschio forte, quindi che la prole fra loro due sarà una prole resistente, forte e avrà maschi a loro volta in grado di riprodursi attivamente, eccetera, eccetera. E allora spezziamo un'arancia in favore ancora dei ragni, che non sono solo dei bruti, ma ci sono anche i ragni gentiluomini. Sì, torniamo invece in Italia, le Pisaura mirabilis, sono dei ragni che in cui il maschio adulto in questo caso segue sempre la femmina, sono ragni nomadi, non fanno la ragnatela, e una volta che trovano la femmina le portano un pacchetto regalo, cioè le portano un insetto impacchettato nella loro tela che non hanno mangiato loro ma hanno tenuto per regalarlo alla femmina, e questa femmina mentre mangiucchierà il suo regalo, il suo bacetto perugina, accetterà di buon grado da parte del maschio che esso si accoppi con lei. Alcuni maschi, concludo con questa cosa, in realtà sono un po' dei Don Giovanni, perché approfittano della bontà di alcune femmine per fregare il pacchetto regalo e scappare a piè levato con il pacchetto pronto per un'altra nuova avventura amorosa. Un po' opportunisti. E ora io concluderei facendoti raccontare, se possibile anche agli ascoltatori, l'aneddoto che per caso ti è capitato. Hai assistito a una sorta di adozione. Come spesso succede a chi fa scienza, alcune scoperte provengono dagli errori, si pensi alla penicillina. Beh, io ho fatto un errore, allevavo questa femmina di licosa di tarantola che portava i suoi piccoli sul dorso, e un giorno mi è arrivato un altro esemplare di un'altra specie, completamente diversa, sempre una licosa, quindi sempre una tarantola, ma proveniente dall'Ucraina, non dall'Italia. In un cambio di terrari per necessità logistiche ho dovuto spostare la femmina coi piccoli e lì ho messo l'altra femmina, quella nuova arrivata, quella russa, e sono uscito. Alla sera, quando sono tornato a casa, ho trovato che alcuni piccoli che erano sulla groppa della madre italiana, che mi erano caduti per mia incuria nella teca precedente, erano saliti in groppa alla nuova madre, potremmo dire. Tra le curiosità, non era neanche una madre di altri piccoli suoi, cioè era vergine, quindi non si era mai accoppiata, non aveva mai avuto a che fare con dei piccoli. Quindi è una cosa un po' curiosa, ancora da verificare, di cui non si sa nulla, non si sa perché sia avvenuta questa adozione. Ma lo sai che la tela del ragno è più resistente dell'acciaio? Davvero? E lo sai che le corde dei pianoforti sono appunto fatte d'acciaio? Sì, ma cos'è? Sei in vena di quiz. A dire il vero, era un modo originale per farti notare che siamo in ritardo un'altra volta. È vero, c'è il concerto del maestro Stefano Bollani, dai, non possiamo perderlo. Una pausa, adesso poi ci sarà il quiz, ma torneremo a parlare di Genova. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Gioco elettrico questa volta, siamo al nostro quiz. ‎330 kWh al mese di elettricità consuma una famiglia media in un'abitazione media. Allora, adesso pensiamo alla dinamo, quella della bicicletta. Che cos'è che fa? Usa energia meccanica, un'energia che esce dal movimento della ruota per produrre energia elettrica. Ma il movimento potrebbe essere anche un altro, quello per esempio di un soffietto che pigia con il piede, no? Che si pigia per gonfiare un canotto. Bene, quanto tempo ci vuole per generare in questo modo i 330 kW che si consumano in una casa in un mese col soffietto? Avete tre possibilità. La prima, 72 ore, ci scriverete 72. 400 ore, ci scriverete 400. 90 anni, ci scriverete 90. Ci scrivete con il solito SMS 349-238-6666. Il libro che si vince questa settimana è Solitudine, l'essere umano e il bisogno dell'altro, di John Cacioppo e William Patrick, edito da Il Saggiatore. Di questo libro presentato a Genova parleremo la prossima settimana. In collaborazione con IBS.it. Come si crea la ricchezza? È una domanda che può essere posta a scienziati e a chi lavora in genere con la scienza. A Genova se ne è discusso e Barbara Gallavotti ha fatto questa domanda a Piero Angela. Abbiamo parlato di come si crea la ricchezza al Festival della Scienza di Genova in un caffè organizzato dalla Fondazione Rosselli. Erano presenti Sergio Bertolucci, direttore di ricerca del CERN e nostro ospite abituale qui a Mebius, Mario Calderini, del Politecnico di Torino, esperto in innovazione e presidente di Finpiemonte, l'agenzia di sviluppo del Piemonte, e Piero Angela, l'inventore della divulgazione scientifica in Italia. A lui abbiamo girato la domanda: come si crea la ricchezza o cosa la crea? La mia opinione è che in realtà la si crea con la mente. Tutta la storia dell'umanità insegna che ogni volta che si è inventato qualcosa, innovato, organizzato, educato, Ebbene, si sono ottenuti dei risultati. Oggi noi siamo proprio carenti in questi settori dell'educazione, dell'innovazione, della ricerca, e credo che questa sia un'occasione del festival per parlarne. In altre parole, non stiamo facendo tutto quello che dovremmo per mantenere un benessere molto notevole, conquistato faticosamente attraverso le generazioni? Siamo troppo abituati a girare un interruttore e accendere la luce, entrare in una macchina, mettere in moto e partire. E pensiamo che questo faccia parte, come il sole, la nebbia e la grandine o il bel tempo, della natura, del modo di essere. In realtà, se uno va a vedere dietro ognuno di questi gesti, c'è una catena lunghissima di tecnologie, di energie, di organizzazione, di innovazione, di gestione. Su questi temi noi dibattiamo molto poco, siamo distratti da fatti che hanno poca importanza nella storia dell'umanità e soprattutto per il nostro futuro. Lei ha detto che non è stata tanto l'invenzione della ruota a cambiare il mondo quanto l'idea di come far girare la ruota, è così? Sì, perché quando si fa girare la ruota gira tutto, non solo il furgone lavatrice, non solo le industrie, ma gira il sistema di un paese. L'energia è quella che permette ai ragazzi di andare a scuola, perché dietro hanno un sistema tecnico, energetico, industriale, che è quello che è generato dall'innovazione e dall'energia. Quindi se non si fanno girare ruote, poi torniamo a raccogliere patate. Chi è il principale consumatore di energia? Lei questa sera ha dato un'idea. Secondo me è il filosofo, è una battuta naturalmente, ma sa che una volta si producevano derrate alimentari in proprio, il contadino produceva cibo per 2 o 3 persone, con le macchine oggi se ne producono per 50, 100 e più persone, quindi le persone che producevano cibo sono passate all'industria, poi al commercio, al terziario, eccetera. Non ci rendiamo conto che noi saremmo incapaci di fare qualunque oggetto che è intorno a noi, saremmo incapaci di andare a scuola, di creare un sistema scolastico se non ci fosse energia dietro. E allora il simbolo, diciamo, di chi non produce più cibo, oggetti, commerci e niente, è il filosofo che pensa. Se pensa bene, se ha delle idee interessanti, innovative, creative, allora vuol dire che ha dato un contributo, altrimenti no. Richard Wiseman, poco noto da noi ma ampiamente conosciuto nel mondo anglosassone, in Inghilterra, dove vive e insegna psicologia alla Università di Hertfordshire, e negli Stati Uniti, noto per le sue partecipazioni a programmi televisivi e radiofonici, alcuni direttamente condotti da lui e con un grande successo. Al Festival di Genova ci ha parlato del suo ultimo libro dal titolo strano, Queercology, edito in Italia da Ponte alle Grazie. Da dove viene questo titolo? Ce lo spiega lui. Because it describes unusual areas of psychology. And in English, the word for that is quirky. Queercology spiega un'area inusuale della psicologia. Quirk vuol dire strano, e quindi queercology potremmo interpretarlo come stranologia. E lui dice anche che ormai stanno partendo in diverse parti del mondo esperimenti, studenti, ricercatori che ormai fanno ricerche nella queercologia. Vediamo un tipico esempio di esperimento di queercologia. È il seguente, che Weisman ha fatto dal vivo. Ha preparato 2 biglietti, su uno c'era scritto vero, sull'altro falso. Poi ha chiamato una ragazza dal pubblico e le ha fatto scegliere uno dei 2 senza che il pubblico potesse vedere quale, quindi lui e la ragazza sapevano se sul biglietto c'era vero o falso. E poi le ha detto: prova a pensare all'altra sera o la sera ancora precedente, a quello che hai fatto, e adesso, a seconda di quello che c'era sul biglietto, ci deve dire qualcosa di vero che hai fatto veramente, oppure inventarti qualcosa perché sul biglietto c'era scritto falso. Ecco la testimonianza della ragazza. Ieri sera c'erano, come sapete, le elezioni del PD e io ero fuori Milano. Allora avevo fatto tutti i calcoli per tornare per tempo, però c'era un sacco di traffico. Allora, insomma, non sapevamo bene come fare e abbiamo telefonato a una nostra parente che si è collegata a internet e ci ha dato il seggio di Burolzo, che è un paesino vicino Vercelli. E siamo andati a votare in questo paese che si chiama Burolzo. Dopodiché, che cosa ha fatto Richard Wiseman? Ha fatto votare il pubblico chiedendo: secondo voi questa ragazza ha detto il vero e il falso? E il risultato è stato un 70% di vero e un 30% di falso. Poi Richard ha chiamato un uomo ed ecco la sua storia. Ieri sera sono stato ad Esenzano del Garda, alla discoteca Cura, dove mi sono molto divertito. Ho messo una versione dance dell'inno nazionale d'Italia. Il pubblico si è diviso qui votando, c'è stato un 50% di vero e un 50% di falso. Ma come stavano le cose? Allora, stavano così. La donna aveva detto la verità, mentre l'uomo aveva mentito. Commento di Wiseman. Most people are not very good lie detectors. They score at about 50%. Dice, gran parte di noi, la gente, insomma, non sono dei buoni identificatori di ciò che è vero e falso. È quello che è anche singolare, dice lui, che pure i giudici e anche i poliziotti tendono a dare delle risposte che sono molto lontane dai dati. Per esempio, si dividono 50 e 50. E questo avviene perché tendenzialmente si pone l'attenzione a dei segnali che non sono quelli giusti. Per esempio, se uno si muove in un modo un po' strano oppure se suda, non è questo che bisogna guardare. Mentre invece il segnale importante a cui prestare attenzione è proprio quello delle parole. Ebbene, nella stragrande maggioranza dei casi quello che si nota è che chi dice la verità parla molto di più e chi dice delle cose false le dice in tempi decisamente più brevi, quindi con molte meno parole. Wiseman e i quirkologist che seguono la sua linea sperimentale, che cosa fanno in conclusione? Osservano comportamenti assolutamente quotidiani e normali e cercano di capire se sotto l'apparente poca significatività ci possa essere invece qualcosa di strano. Un intero capitolo del libro, per esempio, è dedicato agli esperimenti sulle barzellette e qui veniamo a sapere come prima cosa che ci sono tipologie di barzellette che fanno ridere molto di più gli uomini delle donne e viceversa, ma ancora più in profondità. Sentite questo passaggio del libro dove Wiseman scrive: all'inizio del progetto avevamo ricevuto la seguente barzelletta. Ci sono due mucche in un campo, una fa muu, l'altra risponde: stavo proprio per dirlo anch'io. Decidemmo di usare questa storiella come base per un piccolo test, la reinserimo più volte nell'archivio usando sempre un animale, un verso differente. Avevamo due tigri che facevano grrr, due uccellini che facevano chip e così via. Al termine dello studio analizzammo le che i diversi animali avevano esercitato sul grado di apprezzamento della facezia e al terzo posto si collocò la freddura originale sulle mucche, al secondo quella dei gatti, ma la vincitrice fu: ci sono due anatre in uno stagno e una fa quack quack, l'altra risponde: stavo proprio per dirlo anch'io. E secondo Wiseman è la K che fa ridere di più. Sulle barzellette Wiseman ha lavorato con molti colleghi mettendo in campo un gigantesco esperimento che l'ha portato a raccogliere, pensate, 40.000 barzellette provenienti da molti paesi, testandole su 350.000 soggetti per capire tutte le possibili differenze nell'umorismo di questi soggetti e anche andando alla ricerca delle freddure che ottenevano il gradimento più alto. Quella con il massimo punteggio, vi chiederete, è la seguente. Ci sono due cacciatori che vanno in un bosco con i loro fucili. Improvvisamente uno dei due amici si porta la mano alla gola come se si sentisse soffocare e infatti sembra proprio così e cade a terra e senza più vita, sembra. Sembra proprio che non respiri. L'altro amico allora che cosa fa? Tira fuori il cellulare e chiama un servizio di emergenza e grida: il mio amico è morto, che cosa posso fare? Ansimando. L'operatrice del centro di emergenza gli dice: si calmi, adesso l'aiuto io. Innanzitutto dobbiamo assicurarci che sia morto. A questo punto l'operatrice sente un vuoto, non c'è più nessuno che parla al telefono. Poi sente un colpo di fucile, ritorna quello di prima che dice: ok, questo l'ho fatto, e adesso? Torniamo al traffico, vediamo cosa succede sulle nostre strade. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Soluzione del quiz, che era: come si riesce, pigiando uno di quei soffietti per gonfiare i canotti, a produrre 330 kWh necessaria all'energia di un mese per un'abitazione, una famiglia media, cioè quanto tempo ci vuole con questo soffietto? Ebbene, la risposta esatta non è 72 ore, non è 400 ore, ma 90 anni, ci vogliono 90 anni, però se contemporaneamente aprite pure un servizio di gonfiaggio canotti, magari fate anche qualche soldo. Lasciamo i canotti e i kilowatt e andiamo in un circo, ma non per parlare di cose divertenti, purtroppo. Questo servizio, curato da Sara Occhipinti, inizia con la voce di un signore di una certa età che racconta la sua vita. Hi, my name is Tom Ryder. For 2.5 years I worked in the circus industry. Sono Tom Ryder. Per 2 anni ho lavorato con gli elefanti nei circhi. Sono entrato nei circhi per stare con gli animali e occuparmi di loro. Ma mi sono reso conto che questi animali vengono maltrattati in nome del divertimento. La vita che avevo sognato ha cominciato a nausearmi. Nel circo Ringling Brothers vedevo ogni giorno abusi sugli animali. Cavalli presi a pugni, tigri frustate e prese a bastonate, e gli elefanti, che amavo, picchiati e frustati. Ho visto una povera elefantessa, Karen, picchiata con un bastone uncinato per 23 minuti. Quando gli elefanti non facevano spettacoli, erano incatenati come schiavi. Passavano 22 ore al giorno senza potersi muovere. Ho anche visto i referti veterinari che parlavano di ferite dovute alle catene e di problemi di artrite, lesioni alle zampe e ascessi. In Europa gli animali, costretti in tournée in inverno, soffrivano per il freddo terribile. Ho deciso che il troppo era troppo. Ho lasciato il circo per raccontare la mia storia. Da allora sono stato il testimone principale nel processo contro il circo Ringling Brothers per la violazione della legge degli Stati Uniti sulle specie in pericolo. Io ho visto cosa succede dietro la facciata di lustrini. Il processo intentato contro il Ringling Brothers Circus nel 2000 è giunto al termine dopo 10 anni lo scorso marzo. Il Tribunale Distrettuale di Columbia, Washington, deciderà in questi giorni se accogliere le richieste avanzate da Tom. Abbiamo chiesto ai giudici che gli elefanti non venissero più costretti nelle gabbie e legati con delle catene. Abbiamo potuto avanzare queste richieste perché gli elefanti asiatici sono una specie in via d'estinzione. E negli Stati Uniti c'è una legge a tutela di questi animali. Quindi stop alle catene, stop ai bastoni e ai pungoli di ferro. Chiediamo che nelle mani di chi si occupa degli elefanti ci sia solo il cibo per nutrirli. Vi segnalo che sul nostro sito www.mebiusonline.eu potete trovare il video che mostra tutte le vessazioni di cui è stato testimone Tom Ryder. Durante la sua battaglia, Tom è stato supportato da Animal Defender International, associazione per la difesa degli animali, che ha promosso la campagna Stop alla sofferenza nei circhi, sia negli Stati Uniti che in Sud America e anche in Europa. Elder Constantino, rappresentante dell'associazione e responsabile dei rapporti coi parlamenti dei paesi coinvolti, ci spiega il metodo con il quale sono riusciti a portare alla luce gli abusi e i maltrattamenti inflitti agli animali dietro le quinte. Noi facciamo delle indagini sotto copertura, mandando alcuni nostri collaboratori addestrati a lavorare nei circhi. Per i nostri agenti non è difficile essere assunti. Nei circhi manca il personale a causa del tipo di lavoro molto duro e c'è un turnover di lavoratori elevato perché non tutti sono disponibili a seguire il circo quando si sposta. Una volta che i nostri collaboratori si sono infiltrati, filmano cosa accade dietro le quinte e ci portano i video. Grazie alle indagini sotto copertura di questa associazione, in Bolivia è stata approvata una legge che bandisce tutti gli animali, sia selvatici che domestici, dai circhi. Anche in Brasile e Perù sono al vaglio dei parlamenti proposte di legge simili. Elder Constantino ci racconta cosa hanno ottenuto in Portogallo. In Portogallo si sta discutendo una legge che non bandisce a tutti gli effetti gli animali dai circhi, ma che vieta ai privati di far riprodurre e di possedere animali selvatici. Inevitabilmente questa legge porterà in pochi anni a impedire la presenza di questi animali nei circhi. La situazione in Italia è diversa, come ci spiega Massimo Tettamanti, autore del libro Diseducazione alla violenza e collaboratore di Agire Ora, associazione per la difesa degli animali. In Italia la situazione è rovesciata, è lo Stato che con soldi pubblici tramite il Fondo Unico per lo Spettacolo che finanzia circhi con animali. In contrapposizione a questo c'è un'unica proposta di legge firmata, proposta dall'onorevole Gianmanco, ma trasversale, firmata da politici di diversi schieramenti, che chiede invece una cosa estremamente semplice. A causa del danno ai bambini, viene un danno educativo, chiede di non finanziare più con soldi pubblici il circo con animali. Però tenete conto che se dovesse passare questa proposta di legge, per il circo con animali sarebbero tempi duri, perché non potrebbe sopravvivere da un punto di vista economico. La proposta che vogliamo fare noi, per quanto possa sembrare provocatoria, è invece assolutamente in linea con tutti i più moderni studi scientifici, è quella che non solo non dovrebbe essere finanziato, ma addirittura dovrebbe essere vietato ai minori. Ai microfoni di Mebius, Massimo Tettamanti sottolinea inoltre l'influenza negativa di questo tipo di spettacoli sulla psiche dei bambini. In particolare in Italia Anna Maria Manzoni è una psicologa, ha scritto una dichiarazione proprio per testimoniare il danno psicologico ai bambini legati all'assistere a episodi di violenza su animali, in particolare per il circo, e più di 600 psicologi italiani hanno firmato e sottoscritto questa dichiarazione. E proprio a partire da questo tema, da questo argomento, ho qui ospite questa sera Anna Maria Manzoni. Buonasera Anna Maria. Buonasera a voi. Psicologa e psicoterapeuta e autrice di due testi. Il primo è Noi abbiamo un sogno, edito da Bompiani. Il secondo è In direzione contraria, edito da Sonda. Sono due testi che si dedicano alla violenza nei confronti degli animali. Ecco, si potrebbe dire, beh, insomma, siamo tutti d'accordo sul fatto che la violenza sugli animali non è una cosa bella, però si potrebbe pensare che questa cosa sia, questo comportamento sia separabile invece da una cultura della violenza sugli uomini. Ebbene, dalle ricerche che state facendo voi in questo campo risulta non essere così. Sì, esatto, non è così, nel senso che la violenza è violenza, sia che sia compiuta sugli animali umani che sugli animali non umani, e ci sono ormai tantissimi studi che mettono in relazione la violenza contro gli animali non umani a quella nei confronti dell'uomo, nel senso che ci sono tantissimi casi documentati in cui dall'una si è passati all'altra. E devo dire che anche i sacri testi, vale a dire i manuali diagnostici che sono in uso nel mondo accademico e che vengono usati da tutti gli psicologi nel mondo occidentale, sottolineano questo link che lega le due forme di violenza. Tanto è vero che viene preso come uno degli indicatori nei disturbi dell'età infantile e adolescenziale, negli disturbi antisociali dell'età adulta, uno degli indicatori è la violenza contro gli animali, spesso e volentieri preludere a quella sull'uomo. Lei mi citava anche, preparando l'intervista, di casi in cui apparati militari, servizi segreti, insomma, abbastanza violenti, usano questo sistema. Sì. Direi senz'altro di sì. Le cito per esempio quello che succedeva in Iraq durante il periodo di Saddam, dove c'erano i bambini detti leoncini di Saddam che venivano abituati a compiere delle violenze gratuite sugli animali per abituarsi a compierle poi sugli uomini. E poi non è necessario andare tanto lontano, perché in fondo nelle società mafiose di casa nostra succede esattamente la stessa cosa. Forse perché, non so se sbaglio, ma certo, oltre a essere un essere vivente, l'animale ha una faccia, degli occhi, un'espressione, una bocca, un naso, certo sono diversi dal nostro, ma è comunque una faccia e quindi si è prossimi all'umano, no? Senz'altro, lei sta toccando uno dei temi fondamentali, che è quello dell'empatia, vale a dire la capacità di mettersi dal punto di vista dell'altro per capire quello che pensa, ma soprattutto per provare quello che prova. Ora, gli animali mandano dei segnali, nel caso specifico di cui stiamo parlando, segnali di sofferenza e di dolore, che sono facilissimamente decodificabili, soprattutto per quanto riguarda le specie che sono più simili a noi. Cosa significa questo? Che se l'animale non umano mi manda dei segnali di sofferenza e io rispetto a questi segnali di sofferenza reagisco con l'indifferenza, è evidente che la mia psiche, il mio modo di pensare, quello che io provo, mi porta a abituarmi o addirittura a supportare certi tipi di meccanismi. Quindi divento insensibile alla sofferenza degli animali non umani che mandano segnali che sono chiari, e questo, attraverso un processo di desensibilizzazione, mi porta a diventare altrettanto insensibile di fronte alla violenza contro gli umani. E anche questa volta, come dico spesso, Moebius vi ha raccontato tutte le sue storie. Vi saluto, buona serata a tutti e a tutte, ci sentiamo la prossima settimana.